di tempo per realizzare l'impianto, dopodiché deve attendere che venga collegato alla rete. Certo non è Sgarbi la fonte delle tesi le faccio questa domanda. Allora, ci sono state delle inchieste della magistratura siciliana, sì, più inchieste, che hanno portato poi a mettere a nulla, luce, no, sa, a mettere a in nulla, luce, no, sono sa, state anche incarcerati degli imprenditori dei politici locali. E vede che lei sbaglia ancora una volta, perché quindi la mafia sull'eolico secondo lei non c'è mai stata in Sicilia, cioè non ha interesse per i movimenti a terra, non ha interessi Pacificamente ci possono essere, e questa è la cosa sulla quale l'associazione è prima e sempre e comunque abbiamo dei protocolli di legalità. Lo dice perché se uno prendesse soldi dalla comunità europea per mettere gli impianti che poi non girano, avrebbe ragione lei, perché uno dice allora con quei soldi io pago le opere civili e appunto eventualmente con queste infiltrazioni e ce n'è un beneficio. Ma se io per fare un impianto eolico che costa, facciamo un esempio, 100 milioni di euro, un impianto medio, tiro fuori di tasca mia 100 milioni di euro che per rilasciare devo far produrre l'impianto per 15 anni energia elettrica, e con questi soldi diciamo che io ho anticipato non li dirò indietro, perché l'impianto non viene lanciato alla rete, perché come si sostiene in questa tesi io tanti soldi l'ho già presi, mentre non è vero, li ho già presi, perché come le dico uno li dirà nei 15 anni successivi di produzione. Voglio capire che bella operazione ho fatto. Che bella operazione ha fatto dunque chi ha investito nell'eolico in Italia? La domanda è molto complessa e sarà il caso di rimandare la risposta ad un'altra puntata. Italia in controluce. Arriva stasera a Milano al Teatro Ringhiera uno spettacolo importante sulla pedofilia. Silenzio è una drammaturgia di Patrizia Zanco e Daniela Mattiuzzi. Parla di bambini e di casi di pedofilia. Come nasce questo spettacolo, Patrizia Zanco? Nasce a partire da una storia vera, avvenuta nel Bellunese, comincia nel 1975 e finisce nel 2004 con la denuncia di un maestro elementare da parte di pochissime ragazze, delle 50 abusate negli anni, in circa 30 anni. Una di queste, quando compie 18 anni, decide di denunciarlo, e quindi con questa sua forte determinazione, con questa sua forte voglia di uscire fuori da questa angoscia che ovviamente le ha accompagna, perché poi l'incapacità di gestire poi dentro di sé questo grave problema rimane per tutta la vita, anche se poi la vita continua, però quindi da questo, da questa esigenza, questa associazione si è creata a difesa dei minori a Trichiana in provincia di Belluno, e loro ci hanno chiamato per occuparci di questa cosa. La storia vera mi ha talmente colpita che ho detto ok, no? Quindi partiamo e cominciamo. Abbiamo cominciato con interviste, abbiamo cominciato con ricerche, ovviamente sia sul territorio e sia attraverso psicologi, assistenti sociali, tutte le persone dell'ambiente scolastico, dell'ambiente sanitario o comunque che gravitano attorno a questo problema, che ci siamo accorte essere un grandissimo tabù. Anche quando lo spettacolo e lo studio è stato pronto un anno fa, abbiamo visto sia le reazioni della stampa, che sembrano andare al di là dell'aspetto artistico, ma si fermano al tabù, quasi che quello che noi abbiamo cercato di fare attraverso, la lingua del teatro, una sorta di informazione, di denuncia, è questo che ci hanno chiesto, e noi abbiamo cercato di rispondere a questa richiesta. Ancora una volta il teatro, dunque, in sostituzione da una parte del giornalismo e della politica. Beh, non oso dire del giornalismo, poiché appunto ci sono invece degli esponenti talmente in gamba e determinati che io rispetto, però sicuramente sì, per quanto riguarda la cultura di massa sempre più omologata e che quindi esporta alla luce ciò che vuole, no? È meglio massificare il popolo, no? La cultura, è meglio massificarla, così lo possiamo controllare, ecco, c'è un po' questo che si sta via via andando a costituire nel nostro paese. Il teatro civile con la forza delle parole, da una parte, è una vicenda che è rimasta un po' in sordina, dicevi il tabù, ma che è una storia reale, una storia di cronaca. È una storia di cronaca, poiché questo signore, che era assolutamente inserito nell'ambiente culturale del bellunese, quindi assessore alla cultura, cioè veramente rispettata poi con il ruolo che aveva di maestro, è chiaro che sia i genitori sia le bambine, perché in questo caso erano tutte bambine, poi ovviamente si sa che la pedofilia è l'abuso è rivolto a tutti, no? Non solo alle bambine, ma in questo caso fatalità sono state solo bambine, le sue preferenze, aveva delle preferenze. È chiaro che lui ha fatto un anno a Opera, un anno a Padova e due domiciliari, vivendo accanto, cioè casa a casa con una delle sue vittime. Immagina come può vivere questa ragazza, insomma, pur essendo grande adesso, ma con il patteggiamento, che adesso per fortuna dal 2006 è stato tolto, con il patteggiamento non si può dire che lui sia colpevole, non si può dire che lui sia innocente. Lui ha patteggiato una pena che poteva rischiare intorno ai 15-17 anni, ovviamente patteggiando ha preso 4 anni, di cui 2 ai domiciliari. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate podcast www.radio24.it. Su Facebook c'è un gruppo denominato Radio 24 Italia in Controluce, dove potete lasciare tutte le vostre idee, i vostri temi e anche i vostri rilievi. La mail è controluce@radio24.it. Domani alle 6:30 ritorna Italia in Controluce su Radio 24.